Come si vive a Tione? Io in realtà non vivo a Tione, svolgo la mia professione a Tione, poi vivo a Trento, quindi sono un po' una pendolare, però comunque sono tanti anni che non voglio lavorare qui e quindi partecipo anche un po' alla, ormai faccio parte, insomma, della vita di questo paese, almeno della vita musicale di questo paese. Secondo lei gli adulti come vedono i giovani? Come vedono, in generale, posso dirti come vedo io i giovani? Sì. Beh, io vedo insomma sempre ragazzi con grande disponibilità e così che insomma per quanto riguarda almeno anche il mio lavoro e mi aspetto ecco da questi giovani che possano poi mettere a frutto questa loro disponibilità nel loro processo educativo, nella loro poi vita professionale. Ecco, io li vedo bene, mi piacciono tanto. Lavoro. E secondo lei i giovani come vedono nel loro corso? Io spero che li vedano bene, no? Che non vedano, che non mi vedano come una vecchia racchia, che cerca, insomma, una vecchia befana, cosa di questo genere. Spero che li vedano come persone da cui così dedurre delle esperienze professionali, anche degli insegnamenti, dei consigli, insomma. Delle buone cose per la loro crescita prossima, futura. Come Come vedi invece gli adulti? Ma sì, bene, dai. Questi qua di scuola musicale, così così, dai. Così così. Diciamo. Ora non mi vedi come una vecchia befana che sta qua a terrorizzare Però un giovani po' sei adulti che non sanno suonare il vecchia. pianoforte, Un po' sei eh? Un po' vecchia. sei.